in primo piano. È l'economia con le parole di Tremonti, l'appello del Marcegaglia in primo piano. Marcegaglia, cambiare passo. Per Tremonti il PIL crescerà più dell'1% nel 2010, resta il rigore, leggo così l'apertura del Sole 24 Ore. Anche il Corriere della Sera sceglie appunto questo tema: Tremonti, l'Italia cresce di più. Ma ovviamente c'è anche la giustizia, come ormai lo sapete. Giustizia, Fini apre al PD La Repubblica, giustizia e distinguo di Fini, questa è la scelta invece della Stampa. Vedremo le altre più avanti, ma come detto è l'economia che tiene banco con il paese che deve cambiare marcia. Serve uno sforzo corale per riprogettare il futuro. Questo è quello che ha rivolto come appello Emma Marcegaglia al presidente di Confindustria davanti alla platea degli industriali di Roma ieri, che erano riuniti in assemblea. Presente c'era anche il ministro dell'economia Tremonti, che ha detto sostanzialmente che il PIL crescerà appunto più dell'1% nel 2010, ma resta il rigore. Ha annunciato anche che si sta mettendo appunto, si sta pensando a una riforma fiscale da fare in fine legislatura, anche se mantenendo appunto la barra dritta sul rigore. Marcegaglia, il paese cambi marcia, questo lo trovate a pagina 3 del Sole 24 Ore, l'articolo di Nicoletta Picchio, con appunto l'appello del presidente degli industriali che invita questo sforzo corale per il futuro, e appunto affiancato Tremonti che dice rigore, questa è la parola chiave, anche se il PIL torna a crescere. A questo proposito io voglio segnalare, rimanendo sempre sul Sole 24 Ore, che ha iniziato a capire quello che potrebbe essere l'anno della svolta, il 2010, quello che per quel che riguarda la ripresa economica, un anno per ricominciare. C'è un bel articolo di Marco Alfieri che racconta la storia di un'impresa che da Caravaggio, in realtà è Caravaggio in provincia di Bergamo, famoso anche per il celebre santuario, sta portando in tutto il mondo un qualcosa di creativo, da Caravaggio per accendere la TV degli altri. L'ultimo cassone intelligente, scrive Alfieri, è in partenza per la cittadina di Iwo. 240.000 euro di impianto per diffondere il digitale terrestre nelle TV di migliaia di nigeriani. Dal mese prossimo questo strano armadio elettronico sarà il trasmettitore di potenza più grande del paese. Tre tecnici stanno finendo il collaudo prima di imballarlo, destinazione Nigeria, ma nel grande magazzino in zona industriale Caravaggio, il paese del santuario appunto di Santa Maria del Fonte, ci sono bolle, scatole che sono codificatori per Hong Kong, parabole per l'Armenia, luoghi impronunciabili sul lago Baikal, trasmettitori per la Cina, l'Azerbaigian. Insomma, questa è la storia della ABE di Roberto Valentin, 25 addetti, l'85% del fatturato, che è 6 milioni, fatti in paesi extraeuropei, persino in zone di guerra. L'obiettivo è arrivare e riaccendere le trasmissioni delle TV. Lo ha fatto questo imprenditore accendendo per esempio la TV di Arafat colpita distrutta dai missili dell'esercito israeliano, la TV di Stato cubana, la TV di Bosnia e Kosovo dopo la mattanza dei Balcani, quella di Baghdad e Bassora dopo la caduta di Saddam Hussein. Davvero un'impresa creativa, anche molto interessante, raccontata in questo lungo viaggio da Marco Alfieri sul Sole 24 Ore, come simbolo scelto oggi dal quotidiano per la ripresa nel 2010. Come detto, l'economia con la parola l'ho detta due volte oggi, scusate la voce, ma è un po' così la febbre che incombe. L'ho detta due volte la parola rigore, quella di Tremonti, anche se che cosa succede? Succede che pare che stia aumentando quella che anche Libero, giornale certo non antigovernativo, definisce fronda anti-Tremonti all'interno del governo. Scajola scrive a Silvio: spendiamo di più, ma Tremonti dice no. Il ministro dello sviluppo economico invita Berlusconi: utilizziamo le risorse per la ripresa, mentre Giulio: rispettiamo i vincoli, niente ricette magiche. Insomma, dopo l'affondo di Brunetta pare che continuino i malumori su cordoni della borsa stretti come vuole Tremonti o cordoni della borsa un po' più larghi come vuole qualcun altro, in questo caso Scajola, tanto che il Riformista ci fa l'apertura di prima pagina. Agguati a Tremonti. Berlusconi lo copre, la sua maggioranza lo assedia. Scajola torna a battere cassa, i Finiani fanno squadra per sblindare la finanziaria. Gli amministratori locali minacciano di scendere in piazza contro il tesoro. C'è anche la questione di tutti i tagli alle amministrazioni locali, soprattutto al nord. Sono molto arrabbiate. Questo per quel che riguarda il panorama economico, mentre il tema della giustizia è quello politico che tiene terra banco, come vi ho già detto, anche con pedanteria nei giorni scorsi. Processo breve. I temi sono il confronto sui dati. Alfano ha detto una stima, l'1% di processi salteranno, l'ANM che è il sindacato delle toghe ha detto il 50%, Alfano ha detto date i numeri, oggi ci sono i dati del CSM, il Consiglio Superiore della Magistratura, cioè l'organo di autogoverno dei giudici. Processo breve, i dati del CSM, a rischio dal 10 al 40% dei giudizi, vabbè la forbice è molto ampia, questi sono i dati. 8-9% la percentuale di processi in fase di dibattimento, che secondo quanto ha detto il ministro della giustizia sarebbe a rischio della riforma, dunque 8-9, 50% come detto dall'ANM, 40% la stima massima del CSM, ne parla il Corriere della Sera con un articolo di Dino Martirano. Ma la giustizia si confronta proprio sui dati, vabbè, tanto che l'Unità ci mette in prima pagina il ministro Alfano agghindato come il burattino Pinocchio, le bugie di Alfano, Pinocchio Angelino, così viene ribattezzato. Ma l'altro grande tema che sapete ormai aleggia, incombe, è quello della mafia e delle accuse di mafia che starebbero per colpire anche il Premier. Questo non lo dico io, ma lo dice per esempio oggi in prima pagina Il Giornale, che tra poco vedremo, tanto che Repubblica dice ecco qua che cosa sta cercando Berlusconi: uno scudo al cavaliere per i reati di mafia. È il retroscena di Liana Milella, sono rimasti impigliati nel processo breve, già sanno che non potrà servire per le future accuse di mafia, e allora secondo Liana Milella Berlusconi prepara un'altra mossa. Via il concorso esterno in reati di mafia. Ne scriveva lunedì scorso Giuliano Ferrara sul Foglio, dicendo questo reato, concorso esterno in associazione mafiosa, è un reato che non è previsto dal codice penale ed è un qualcosa di un assurdo. Secondo Ferrara andrebbe tolto, ed ecco che Liana Milella dice vogliono mettere proprio mano al reato di concorso esterno in associazione mafiosa, quello per cui è sotto processo a Dell'Utri, quello che fu contestato all'inizio ad Andreotti, quello che colpì il famoso giudice ammazza sentenze Corrado Carnevale, quello che ha portato alla sbarra tanti politici, un reato che in realtà non esiste appunto perché non c'è nel codice penale, ma che vive per le pronunce convergenti della Cassazione, dunque un delitto assodato, consolidato, fermo nella storia del diritto. Tanto che sentite come apre Il Giornale: sequestrare il tesoro di Silvio. È data come una certezza l'ultima trovata dell'antimafia, dalla Sicilia è in arrivo un avviso di garanzia a Berlusconi per concorso esterno. Subito dopo gli verrà requisito l'intero patrimonio. Per la legge, infatti, basta il sospetto. È Gianmarco Chiocci che scrive, ripeto, Il Giornale, Dunque è sicuramente vicino alla linea berlusconiana. Se tutto va come certi PM siciliani sognano vada, scrive Chioccia, pagina 3, per Silvio Berlusconi l'aggressione al patrimonio di famiglia avvenuto con la condanna a risarcimento da 750 milioni di euro per il lodo Mondadori rappresenta uno sgradevole antipasto. Sarebbe appunto in arrivo questa accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, e poi possibile l'interdizione dai pubblici uffici e anche l'immediato esproprio dei beni grazie all'articolo 416 bis, tanto che il Foglio ci ritorna proprio. Editoriale di prima pagina, prima contesta in qualche modo i pentiti, la veridicità dei pentiti, e poi appunto si torna sulla questione del concorso esterno in associazione mafiosa, il reato che non c'è, si legge in un editoriale in prima pagina, è un'intervista al professor Stortoni dell'Università di Bologna, diritto penale, che dice vado giù duro contro i reati cosiddetti associativi, quella propaggine in forma di chicca che è il concorso esterno. Non è mai stato nel codice penale, è diventato reato nella pratica corrente delle procure, insomma un mostro giuridico nato da una fantasia accusatoria senza limiti. E per capire come la mafia sia il tema dominante, ripeto, segnatevi il 4 dicembre quando il pentito Gaspare Spatuzza farà una deposizione. Storie di mafia e di denaro, questo è il titolo d'apertura del Fatto. Don Vito Ciancimino e la consulenza a B. B ovviamente sta per Berlusconi, come sapete. E poi c'è le amicizie pericolose dell'ex sottosegretario D'Alì, che è un senatore del Popolo della Libertà. Sandra Murri intervista in due pagine chi? La ex moglie, sono divorziati da qualche anno, la ex moglie dell'ex sottosegretario all'interno D'Alì, originario della provincia di Trapani. Una storia che scrive Sandra Murri narra come il senatore D'Alì, rappresentante di spicco del governo Berlusconi, non abbia mai sentito il dovere di spiegare legami seppure antichi con boss di spicco come il latitante Matteo Messina Denaro, condannato all'ergastolo per le stragi del 93 e oggi a capo di Cosa Nostra. Insomma, gli ingredienti sono davvero forti. Ci sono ancora paginate e paginate sull'inchiesta sempre più misteriosa, quella della morte della trans Brenda, legata poi alla morte qualche mese fa del pusher Cafasso, insomma il caso Marrazzo. Brenda si scava nei file cancellati dal PC, scomparsa l'amica della trans, tra l'altro, secondo Repubblica è scomparsa Michelle, un'altra trans che era avvistata a Parigi. Oggi c'è un resoconto, sesso, video e spese folli, la dolce vita di Michelle prima della fuga da Roma. Ed è l'apertura di Libero, trans, migliaia di video, secondo Gianluigi Nuzzi, aprendo il computer trovato in casa di Brenda, intatto, una super memoria con 90 gigabyte di materiale conservato dal trans negli ultimi mesi, un volume impressionante, scrive Gianluigi Nuzzi, migliaia di foto, video amatoriali, file, materiale hard, shock per le centinaia di clienti che affollavano le notti di Brenda. In tutto questo c'è sulla stampa questa parola, scusatemi, è l'angoscia di Piero Marrazzo. Piero Marrazzo, che scrive Maria Corbi, non è stato un rientro a casa facile per lui, con la depressione che non lo abbandona, lo sguardo pieno di amore e sgomento di sua moglie e delle sue figlie, la pressione dei media, l'incubo di Brenda che lo perseguita, il vicepresidente della regione che dice non l'ho sentito in questi giorni, so che a casa è piuttosto in difficoltà con una sofferenza psicofisica, gli amici che dicono non lo riconosco più, non parla con nessuno, non ce la fa. Sono certo che quello che verrà fuori però sarà un uomo nuovo. La moglie Roberta Serdoz che dice che nessuno parli, che nessuno riferisca cose private della famiglia, e gli amici che dicono adesso è come morto, ripete scusatemi, scusatemi con tutti, è il primo a non perdonarsi. Insomma, una vicenda sempre più intricata, anche il Corriere della Sera con Fiorenza Sarzanini, i misteri del pusher morto, dall'hotel all'ultima dose, spariti il PC e un cellulare, dunque sarebbero spariti anche il cellulare di Gian Guerino Cafasso e il PC, quello con il quale sarebbe stato fatto il video che ritrae l'ex governatore del Lazio. Insomma, una vicenda molto molto intricata. Sulla prima pagina di Repubblica troverete la foto di una persona che a me francamente così lombrosianamente dà fastidio, ma proprio lombrosianamente, mi fermo lì. È Cesare Battisti. Battisti, Brasile, intervista in carcere. Omero Chai è entrato nel carcere di Papuda in Brasile, dove Battisti, terrorista, quattro ergastoli, attende l'estradizione, si dovrà pronunciare Lula. È già notte quando Cesare Battisti scende, scortato da due giovani agenti lungo il breve pendio che separa l'area delle celle dal complesso dell'infermeria, dove lo incontriamo insieme al senatore Eduardo Suplicy, che è uno che non gli ha mai fatto mancare sostegno. Nella cella con Battisti non sono un mostro. Berlusconi mi lascerà qui. Omero Chai racconta, gli avviciniamo, gli diciamo, ma senta, possibile che tutti gli omicidi, dice Battisti, possibile che tutti gli omicidi dei PAC, cioè i proletari armati per il comunismo, li abbia commessi io? Andiamo. Nemmeno l'agente Campagna, gli chiediamo in italiano, omicidio per il quale è accusato direttamente, Finalmente un italiano, dice lui. Lei forse mi potrà spiegare tutto questo accanimento contro di me dopo 30 anni. Però non risponde alla domanda, sostanzialmente. Abbassa lo sguardo, gli dice, forse lei perché è fuggito. Beh, ma sì, ma in Francia, quando ero a Parigi, mi avete lasciato in pace per 14 anni. Credevo che avrei potuto rifarmi una vita dimenticando tutto quello che era successo. Poi il senatore gli passa un cellulare, parlano, arrivano le guardie, fermo, fermo, lei non può parlare al cellulare. Lui chiude le mani, chiude, alza le mani, si scusa. Insomma, in cella con Battisti che dice io dell'omicidio del gioielliere Torregiani lo scoprì leggendo La notte. Fu il momento peggiore della mia vita perché capì che da allora sarebbe comunque cambiata, anche se non avevo nulla a che fare con questa storia. In prigione scrivo molte ore al giorno, in Italia prima o poi tornerò, ma non in manette. Questo è Cesare Battisti, segnalo in chiusura due cose. Prima su Repubblica, il paese che ha abolito i pannolini. Concesio, in provincia di Brescia, sono già 90 le mamme che hanno aderito a questo progetto ecologico di un'associazione, Pannolino Amico. L'ambizione di trasformare Concesio in una capitale della clean economy, pannolini, usa e getta. Perché? Perché inquinano moltissimo. Lo trovate su Repubblica, ora GR24.